Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. La Francia, con quasi 10.000 casi di Covid, prepara una nuova stretta. L'Italia, dove da giorni il numero resta stabile intorno ai 1.500, prepara con fatica la riapertura della scuola in molte regioni lunedì, tra mille incognite, mentre ipotizza la riduzione della quarantena non a 7 ma a 10 giorni. Si deciderà martedì. Il tutto mentre trema il mondo del calcio, con De Laurentiis che si scopre positivo e con sintomi si era presentato alla riunione di Lega con gli altri presidenti. Pensavo fossero ostriche, ha raccontato. Poi c'è la politica che si prepara alle regionali, con una Lega sulla quale cade una discreta tegola giudiziaria. Vanno ai domiciliari tre persone, di cui due ex revisori dei conti del partito alla Camera e al Senato. Ma al centro della scena c'è anche un altro grande caso, la tragedia umanitaria del campo profughi di Moria, a Lesbo. 12.000 persone senza più una collocazione dopo l'incendio. Il presidente del Consiglio Conte parla di disponibilità al sostegno dei minori e invoca ancora una volta quelli che non sono mai arrivati, i meccanismi di redistribuzione obbligatoria dei profughi in Europa. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Simone Spezia. Eccoci, care ascoltatrici e cari ascoltatori, venerdì 11 settembre, sono le 6:32 minuti e 37 secondi. Peter Bescapè in regia, Alessandro Marcotulli in assistenza e redazione, Gloria Guerrera e Giorgio De Luca. La nostra redazione, Margherita Ina, Francesco Ciaraffo, i nostri autori, ci siamo, siamo qua. Con una giornata, in una giornata nella quale, ve lo dico già da subito, la puntata che faremo alle 8:35 è una puntata prevalentemente dedicata a voi, al vostro ascolto e ai vostri racconti su questa scuola che deve ricominciare lunedì. Poi lunedì Radio 24 ci dedicherà a questo un Radio Day. Il Sole 24 Ore, una guida, tutti a scuola, però voglio sentire le vostre voci, i vostri racconti, che siate insegnanti, che siate presidi, che siate personale non docente, che siate genitori, molto semplicemente, come il sottoscritto. Come vanno le cose, cosa vi hanno detto, partite col tempo pieno, senza tempo pieno, partite in ritardo, partite con orari strani. E più in generale, cosa ne pensate di quella che molti considerano una grande occasione persa, quella di rimettere mano a tutti i problemi storici della scuola? O forse è un'occasione ancora aperta, chissà. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp. E poi, a partire dalle 8, l'800 24 00 24, il numero lo conoscete, dalle 8 iniziate a prenotarvi, si attiva il nostro centralino e se vorrete intervenire ci siamo. Siamo anche in diretta su Facebook, ci trovate su Instagram, su Twitter e via dicendo. Mi arrendo, perché pensavo fosse un'opinione abbastanza condivisa. Pensavo che all'interno di una campagna elettorale, per quanto un leader possa essere divisivo, per quanto un leader possa non piacere, per quanto lo si reputi detestabile, l'aggressione fisica dovesse essere condannata sostanzialmente da tutti. E invece apprendo che è pieno di gente, ma anche tra voi, che dice che quello che è successo l'altro giorno, Matteo Salvini se l'è meritato. Quella donna che va là, gli strappa la camicia, gli strappa il rosario, gli urla "ti maledico". E non siete soli, perché anche le sardine lo fanno, anche il regista Gabriele Muccino. Ci vanno giù duri su questo fronte. Ma sono molto perplesso per quel che vale, naturalmente è una mia opinione, quindi discutibile come tutte le opinioni, per carità. La scuola, il presidente dell'associazione Presidi, Giannelli. Ci sono tre ingredienti che secondo noi mancano all'appello, che sono essenzialmente i banchi, le risorse umane e gli spazi. La carenza di organico potrà condurre a una riduzione del servizio e quindi anche del 40%, del 50% di ore in meno. Hai detto niente, mancano i docenti, mancano i banchi, mancano gli spazi. Il test per gli insegnanti, il test sierologico per gli insegnanti, che poi ha il valore che va, perché se guardate i dati che li diffonde oggi il Corriere Veneto nella sua edizione veneta, e dice questo: metà degli insegnanti veneti ha fatto il test sierologico, 1100 sono risultati positivi al sierologico e quindi hanno dovuto fare il tampone. Sapete quanti tamponi, quanti positivi al Covid c'erano di questi 1100? 3! Quindi vale per quel che vale. Lo dice anche il professor Crisanti. Io penso che sia in qualche modo normale, perché una volta ancora viene proposto un test senza chiarire qual è l'obiettivo. È una stupidaggine, perché viene usato il test sierologico per sorveglianza attiva. Quindi le persone che sono negative al sierologico possono tranquillamente essere infette, perché non hanno fatto in tempo a produrre gli anticorpi. Cara Francesca Sforza della Stampa, come stai? Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Ci sei. Ci siamo, siamo alla vigilia della grande prova, la riapertura della scuola. Come vanno le cose da te? Come vanno le cose? Le cose vanno, c'è grande attesa, c'è diciamo un discreto ottimismo, nel senso che sono ricominciate a vivere le chat. Sì, scuole terribili, praticamente e dopo averle odiate come penso tutti, adesso invece siamo contenti di ricevere messaggi, perché ci sembra che si torni davvero a scuola. E io sono moderatamente ottimista. Nel senso che bello. Mi sembra che anche da, insomma, dalle scuole che già un pochino sono riaperte, ci sono stati degli esempi, per esempio le scuole internazionali sono già aperte, sono magari delle situazioni con spazi più grandi, più controllati, però insomma ci sono dei segnali positivi. Non sarà facile sicuramente. Non sarà facile, vedremo come andranno le cose. Tra l'altro c'è tutto un polemicone sulla misurazione a scuola o a casa. Nelle scorse ore, per esempio, sì, la Regione Piemonte aveva detto: dovete scrivere sul diario dei ragazzi o dei bambini la temperatura, la prendete a casa e scrivete sul diario che temperatura hanno. Altre regioni stanno pensando ad attrezzarsi con i termoscanner. Io vi farei sentire su questo ancora una volta il professor Crisanti, via. Se ci crediamo sul serio, alla temperatura deve essere presa con la stessa strumentazione in tutte le scuole e sicuramente anche abbassato la soglia, perché i ragazzi sono per la maggior parte asintomatici e sicuramente un livello di 37,5 a mio avviso era già troppo alto. Ecco qua Crisanti, quindi con 37, dice Crisanti, con 36,9 chissà, teneteli già a casa. Tutto questo si mescola con la questione Covid e anche con questo, permettete, un po' delirio dei virologi o un po' dei virologi, degli epidemiologi, di tutti questi personaggi, di tutti questi medici e scienziati che appaiono in televisione. Per esempio il professor Bassetti di Genova in TV contro Crisanti. La scienza secondo Crisanti. Lì sì che invece c'è della politica, e tanta, creda me. È stato il candidato fino a un minuto prima al Senato di Verona, voglio dire, per i 5 Stelle. Così replica Crisanti. Adesso lo peschiamo perché la replica di Crisanti a Bassetti ce l'abbiamo? No. Evidentemente fatichiamo un po' a trovarlo. Però allora, facciamo una cosa: prima di sentire la replica di Crisanti, sentiamo l'altro file di Bassetti, che è un po' curioso, devo dire la verità. È quello sulla Ferrari, sulla Ferrari, ce l'abbiamo, via. Cioè, se lei fa la domanda, perché la Ferrari arriva quindicesima e la Mercedes arriva prima? Perché cosa? Secondo lei perché? Non lo so. Perché siamo gli unici che hanno fatto un lockdown stupido che ha durato 2 mesi e mezzo. Quando tutti gli altri si organizzavano a lavorare dietro la macchina, noi non c'era la possibilità di farlo perché tutte le aziende erano chiuse. Vabbè. Crisanti che replica Bassetti. Numerosi membri di partito che sostengono la coalizione del governo mi hanno contattato per quella che doveva essere una candidatura unitaria per le supplettive di Verona provincia. Io ho detto di no perché pensavo di poter essere più utile a occuparmi del controllo di questa epidemia in questa situazione, specialmente perché i casi sono in aumento. Oh, cara Francesca, tutto questo ci aiuta molto poco a capire la condizione nella quale siamo. Mi pare che siamo ritornati. Sai che c'è stato un momento verso la fine del lockdown nella quale eravamo in overload da virologi, epidemiologi e via dicendo. Mi pare che stia un po' tornando in quell'area, ho un po' questa impressione. Che dici? Se ne leggono tante, se ne leggono troppe. Io credo che in questo momento anche si sia sviluppato un po' di sfiducia da parte dei cittadini in questo genere di voci. Vedo, insomma, ognuno poi può fare un campione, ma quando le opinioni sono troppe, troppo contrastanti, troppo numerose, troppo sfilacciate, si perde un pochino, ci si rifugia poi spesso in vincono anche le fake news e le cose sbagliate. Credo che davvero adesso, io penso che in fondo un lavoro sia stato fatto, un lavoro da parte del governo, anche con tanti inciampi, diciamolo, però mi sembra che in queste ultime settimane ci sia stata una maggiore concentrazione e che si proceda tutto sommato verso una riapertura abbastanza ordinata. Sì. Posso essere smentita naturalmente dai fatti, ma la mia percezione è che in queste ultime fasi si siano trovate delle indicazioni. Sì. Sì, si siano un po' riordinate le cose. A proposito di delirio di medici, ieri il professor Zangrillo ha detto che in marzo Berlusconi in queste condizioni sarebbe morto, a salvarlo è stato capire in tempo la condizione e quindi solo un ricovero con solo 10 ore di ritardo avrebbe causato molti più problemi, e poi ha detto che rimodulerebbe la frase nel momento nel quale ha detto, lo ricorderete tutti, il virus è clinicamente morto sostanzialmente. Allora vi faccio sentire il professor Zangrillo di ieri e poi Maurizio Crozza che ci scherza su. Sì, la rimodulerei in modo diverso, però l'altra categoria di persone sono quelle che tentano di arruolarmi a quella categoria che non mi appartiene e che non mi può appartenere per definizione, caro dottor Calabresi, perché se c'è uno che ha visto i pazienti soffrire e purtroppo morire, sono io. Dottor Zangrillo, è ancora convinto che il virus sia morto? Allora, clinicamente il virus non esiste più. Ma non è clinicamente. Vero. Allora, la mia è stata un'uscita un po' stonata, modus. Ma che è stonata? Stonata, ma allora, ospedalmente. Clinicamente non esiste ma più. Ma non è vero. Ospedalmente può fare un capolino. Quindi pronto c'è. Soccorsamente rompe le palle, appunto. Ma clinicamente sì, non esiste più. Vabbè, traffico. Mattino. E poi ovviamente c'è il fatto di cronaca, quello che resta in primo piano, quello che colpisce tutti, l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Si sta continuando ad indagare, si sta pensando, anche oggi si sta, emergono dettagli per i quali l'omicidio potrebbe passare ad essere omicidio volontario, l'accusa nei confronti degli arrestati. E oggi si parla anche dei soccorsi, è proprio la stampa della nostra Francesca Sforza che abbiamo con noi a dedicare spazio a questo, al fatto che il pronto soccorso era a 250 metri ma l'ambulanza era impegnata da un'altra parte e quindi hanno dovuto chiamare un'ambulanza da 15 km di distanza. Qualcuno sarebbe corso fino al pronto soccorso a dire ai medici: intervenite, arrivate, però le regole non lo consentono. E questo forse potrebbe, chissà, anche questo sarà elemento di indagine. Questa è stata la prima telefonata al 118. Emergenza. Qui di fronte a Dore Picche c'è un ragazzo che è stato menato, per favore potete venire. Senta, in che comune? Colleferro, di fronte a Dore Picche. Non lo so, la Picca, di fronte alla vecchia Ivia. Aspetti, due di Picche, mi ha detto, ma che cos'è, un locale? Sì, esatto. Sì, è un locale, è un bar. Aspetti che sto cercando l'indirizzo. A Colleferro, Colleferro, due di Picche, sì. Sì. E ieri è intervenuto anche Gali, È intervenuto anche Gali perché dice... Nel nostro mondo, nel mondo del rap, della trap e via dicendo, c'è contiguità con quello dei due presunti assassini, dei due picchiatori. Sentiamo. Ragazzi, ma tutti i colleghi che non stanno dicendo niente sull'accaduto, su quello che è successo a Willy, tutto a posto? Siete sicuri? Tutto ok? Avete delle cose più importanti da comunicare in questo momento? Comunque le cose sono due. O non ve ne frega niente, oppure siete molto simili a quei quattro ragazzi. O avete tanti amici, o avete degli amici simili a loro, siete in un environment, in un ambiente simile a quello. Perché nel rap italiano succede questo, è così. È uno spunto di riflessione interessante quello che arriva da chi lo conosce bene come lui. Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, la federazione nazionale che rappresenta oltre 16.000 farmacie private. Buongiorno Tobia, benvenuto, eccoci. Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Si ipotizza la distribuzione di test sierologici nelle farmacie, che giudizio ne date? Ma è un passo avanti sicuramente nell'interesse della difesa della salute collettiva, in un momento nel quale tanti fattori relativi al Covid creano confusione, creano difficoltà agli utenti nell'individuazione di una patologia purtroppo complessa e difficile come quella che ormai abbiamo purtroppo conosciuto. Il Ministero da questo punto di vista ha dato indicazioni chiare. Noi abbiamo richiesto la possibilità di effettuare i test e siamo in attesa di una lista di test che saranno autorizzati e quindi certificati dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Comitato di Tecnico Scientifico, che potranno essere quindi effettuati attraverso le nostre Tobia, sono 19.000 e non 16.000. Cioè 19.000, mi scusi, per chiarire agli ascoltatori che non avessero fatto il test sierologico, non è molto diverso come funzionamento da un test di gravidanza, solo che ci devi mettere una goccia di sangue, molto semplicemente. Quindi non è una cosa pazzesca, non è una procedura medica incredibile, no? No, assolutamente, esistono test diversi, ma questo ci sarà indicato in maniera inequivocabile dagli enti a cui facevo riferimento prima. Ed è sicuro che con l'autorizzazione e con la certificazione di questi test da parte del Ministero avremo un supporto in più per individuare e dare più chiarezza al sistema sanitario nazionale sulla situazione dei contagi in Italia. Sì. Tobia, ascolti, c'è anche la questione dei del vaccino antinfluenzale, da 1,5 milioni, tra 1,5 milioni e 2 milioni di dosi di vaccino contro l'influenza dovrebbero essere disponibili nelle farmacie italiane. È prevedibile che quest'anno ci sia un incremento di persone che si vaccinano proprio per evitare il più possibile che i sintomi dell'influenza siano confusi con i sintomi del Covid e quindi si arrivi, si crei non solo una confusione epidemiologica, ma anche la confusione sul posto di lavoro, a scuola e via dicendo. E quindi arriveranno queste dosi per le categorie non protette. Quelli che non rientrano tra le fasce protette, e che fasce protette sono gli over 60, i bimbi piccoli, i malati cronici, le categorie in generale a rischio. Bastano queste dosi, Tobia, secondo lei, oppure no? Beh, allora, già avevi la possibilità per questa fascia della popolazione di poter accedere alla vaccinazione attraverso la dispensazione in farmacia e alla profilassi fatta precedentemente dal medico, anche attraverso l'anamnesi che potrà essere fatta esclusivamente dal medico. È un dato assolutamente positivo, perché fino a qualche giorno fa, dalle notizie che ci giungevano dalle nostre cooperative, dall'industria farmaceutica, le farmacie non riuscivano a ordinare, e ancora oggi non riescono ad ordinare dosi vaccinali all'industria farmaceutica. È un dato positivo. L'anno scorso abbiamo dispensato quasi un milione di dosi. Di questi tempi l'anno scorso riuscivate già ad ordinarle oppure no? Assolutamente sì, gli ordinativi soprattutto per farmaci come i vaccini antinfluenzali si fanno addirittura 3-4 mesi prima dell'arrivo. Quindi c'è un problema, Tobia, mi scusi, c'è un problema di approvvigionamento al momento oppure no? Sì, il problema esiste, ma abbiamo accolto con grande soddisfazione la proposta avanzata alla conferenza Stato-Regione da parte del Ministro della Salute su una rimodulazione delle quote dei vaccini antinfluenzali che potranno essere dispensati attraverso le farmacie da quelle derivanti dalle quote acquisite dalle regioni. Quindi ci sarà sicuramente nella prossima settimana, si parla di lunedì, una riunione tecnica attraverso la quale le regioni e il Ministero rimoduleranno le quote in maniera tale che possa essere disponibile il vaccino antinfluenzale anche per questa fascia di popolazione che viceversa sarebbe sguarnita dalla copertura vaccinale, fascia della popolazione che costituisce poi l'asse produttivo del paese, i trentenni, quarantenni, cinquantenni che ancora un minimo sintomo dell'influenza, i sintomi sono assolutamente sovrapponibili, avrebbe il dubbio se è stato affetto dal Covid piuttosto da normale, semplice e banale influenza stagionale. Avete idea di quando vi arrivino, Tobia? Guardi, la rimodulazione attraverso le regioni dovrebbe arrivare la settimana prossima, poi bisognerà sicuramente organizzare attraverso le industrie farmaceutiche l'arrivo logistico presso le farmacie, quindi immaginiamo che contemporaneamente alla disponibilità per i soggetti aventi diritto, quali faceva riferimento lei, gli over 60, anche nelle farmacie sarà disponibile il vaccino antinfluenzale. Voglio dire però che noi ci siamo portati avanti da questo punto di vista, e le rubo solo un altro minuto, perché c'è un tema, quello del farmacista vaccinatore, che è un tema che è comune a 16 paesi su 28 l'Unione Europea. In UK si vaccina in farmacia ormai da tantissimi anni, mentre in Italia ancora non siamo riusciti. Ma qua i medici non vogliono. Torneremo a parlarne, Tobia, perché tanto torneremo da voi, non si preoccupi, c'è tempo e i vaccini non sono ancora arrivati. Abbiamo ancora 30 secondi. Se Francesca Sforza è ancora con me, Francesca, ti chiedo, guarda, 20 secondi veramente, giusto come sottolineatura per i nostri ascoltatori su questa tragedia umanitaria che sta avvenendo a Lesbo, che noi abbiamo lasciato da parte sulla scorta di Covid, però siamo ancora qua e siamo ancora in attesa che si vari un meccanismo obbligatorio di redistribuzione dei profughi, si chiuda una vergogna come il campo di Moria. Sì, ecco, io davvero, se posso dire una cosa, invito a leggere oggi i reportage su Lesbo che ci sono sui giornali, perché sono dei racconti che accendono la luce su quelli che sono veramente i punti più neri del nostro continente europeo, quelli in cui nessuno vuole gettare uno sguardo. E sono quelli però da cui si produce un dolore che arriva fino a noi e che poi diventa violenza e che poi diventa cattiveria. Sì. Per cui credo che se davvero possiamo fare una piccola cosa, ecco, leggiamo oggi queste storie. perché ci aiutano un pochino, sì, in contatto con questo mondo, perché ci aiutano a capire. Grazie Francesca Sforza e La Stampa, alla prossima Francesca. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. La pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video, GR24. Ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.